scelto il cielo blu per trovarsi a tu per tu e per dirsi mi vuoi bene non si parlano. La parola eternità da mezz'ora viene e va, mentre il sangue nelle vene è troppo giovane. È il primo appuntamento, è il primo incontro di due cuori amanti. Signora guardi, li lasci stare, son due sospiri ardenti che vivono quest'attimo d'incanto. Signora guardia, li lasci stare, io chi sono, son la luna d'ogni sera e certe cose le so capire, son la luna e sono pronta a garantire che il loro amore è ingenuità. Appuntamento è il primo incontro di due cuori amanti. Signora guardia, li lasci stare. Signora guardia, signora guardia, li lasci stare, li lasci stare. Signora guardia, signora guardia, li lasci stare, li lasci stare. Io chi sono, son la luna d'ogni sera e certe cose le so capire, son la luna e sono pronta a garantire che il loro amore è ingenuità. È il primo appuntamento, è il primo incontro di due cuori amanti. Signora guardia, li lasci stare, son due sospiri ardenti che scherzano e si bruciano col fuoco dell'amore.